allora soffrirò. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E questa è Paola Turci con Solo con me, quindi possiamo dare inizio, Maurizio, a quella che è una serata che è tutta al femminile. Tutta al femminile. Esattamente. Giustamente, perché abbiamo due interviste a due artiste che si stanno affacciando nel mondo della musica, anzi lo sono già da lungo tempo, però meritano anche uno spazio in più dedicato appunto a quella che è la presentazione dei loro lavori. E quindi per iniziare c'è a telefono con noi Ilaria Pastore, al quale diamo il benvenuto in frequenza. Buonasera Ilaria. Ciao a tutti, buonasera. Buonasera Ilaria. Sì, questo è il tuo primo disco nel mio disordine, però tu hai 10 anni di carriera alle spalle con Ilaria Pastore Trio, hai studiato canto jazz, quindi hai fatto parecchie cose. Sì, no, ridimensionerei un pochino nel senso che, no, 10 anni nel senso, 10 anni sono passati da quando ho iniziato a suonare in giro. Il trio esiste bene o male dal 2006-2007. E pillole di canto jazz, nel senso che l'insegnante Daniela Panetta, appunto, lei è un'insegnante di jazz, e abbiamo cercato di accoppiare il mio modo di cantare all'educazione jazz, che è, diciamo, un po' delicata, no? Sì. Quel canto non urlato, quel canto pulito, quella ricerca di colore, ecco. Volevo ridimensionare perché, sai, è sempre un po' pericoloso usare la parola jazz. Certo, anche perché sbagliato. Ilaria, il canto jazz è quel classico canto che di prima battuta magari ai più non può piacere, però poi viene colta subito ogni fragranza di ogni nota che esce dalla voce. Esatto, è un canto poi molto associato all'emozione, quindi l'esecuzione è la base, però sei in una fase in cui puoi dare ampio spazio all'interpretazione senza più preoccuparti della tecnica, perché ci sei, insomma, è un'altra cosa, ecco. In quel senso io non sono assolutamente jazzista, nonostante spesso con il trio ci inseriscono in cartelloni di festival, diciamo, di sapore jazz. A me fa molto piacere, però sono convinta che nel nostro caso sia più una questione di raffinatezza del repertorio, ecco, mettiamola così. L'hai sfiorato, possiamo dire così. Sì, appena, sì, perché appena. Poi mi piace tantissimo, quindi ovvio che quando tu scrivi poi viene fuori quello che ami, no? Sì. Però ecco, ci tengo sempre a precisare perché non vorrei mai. Chiaro. Io e Flavio ci siamo stati colpiti dalla copertina di quest'album. Sembra una copertina degli anni 60, anni 70, libera, proprio una libertà completa. Non so cosa sì, dici. È vero, è vero. Le foto sono di Zoe Vincenti, che è una professionista pazzesca, però è anche una persona che mi conosce a fondo. Quindi quando le dissi il titolo del disco, lei ascoltò le tracce. Insomma, fu in un attimo decise cosa fare, e quindi siccome questo è un disordine comunque ad un lieto fine, non è un disordine opprimente o triste o buio, è un disordine pieno di cose, e così siamo finiti in questo parco ad ottobre, un freddo cane. Sì, perché tu vestito. Sei ancora in mezze maniche, per non dire con le spalle scopertissime. Esatto, con questo vestito in pluriball, che è quel materiale per gli imballaggi. Sì. E insomma, niente, abbiamo messo su questo party del bosco. Però è stato bellissimo, è stato molto bello. Ti sei imballata da mobile in quel caso. Sì, sì, esattamente, quella è un'opera della Raffaella, che era la stylist, ho detto, guarda, no, lasciamo perdere i soliti vestiti, ci penso io a te. Bene, fantastico, quindi beh, è costato anche poco relativamente, no? Sì, investire. In fatica è costato molto. Ecco, sono abiti di Armadi in questo caso, no? Non sì, esatto, Giorgio ecco. Armadi, esatto. Benissimo. Esattamente. Allora. Noi abbiamo scelto per iniziare il primo pezzo, Ilaria, perché mi ricordava, tanto un pezzo cantautorale, però tuo, mi ricordava lontanamente, ma molto lontanamente, Susan Vega, così. Ah, caspita, questo non me l'avevano mai detto, però è un ottimo paragone, direi. È così, mi è venuto in mente, cioè sentendolo più di una volta, mi ha ricordato così. E allora abbiamo deciso io e Flavio di aprire la finestra sul tuo album col primo pezzo. Tanto gli altri 9 tracce parlano della tua vita, della quotidianità praticamente. Un po' di me, ovvio, un po' di cose personali ci sono, è normale, però in realtà sono spunti quotidiani anche condivisi con persone che fanno parte del mio mondo, insomma, un po' cose che capitano anche a tutti. Certo, chiaramente. Bene, allora Ilaria, direi di rompere anche la parte parlata, trasmettendo sì. Anche qualcosa di tuo, così tanto per avvicinare ancora di più gli ascoltatori a quella che è l'intervista con te, per conoscere di più la tua musica e per conoscere soprattutto Nel mio disordine, il tuo ultimo lavoro. E allora abbiamo scelto appunto la traccia che si intitola La chiamano notte. No. Ecco qua. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Essa Sera. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. La chiamano notte, questo è il titolo del brano che ci siamo ascoltati in apertura di trasmissione e soprattutto in apertura dell'intervista a Ilaria Pastore. Nel mio disordine, diamo ancora il benvenuto a Ilaria che è in collegamento telefonico con noi. Ecco Ilaria, perché Susan Vega? Perché l'inizio chitarristico mi ricordava fortissimamente alcuni momenti di Susan Vega. L'inizio, poi chiaramente lo sviluppo è tuo personale, personalissimo, però l'inizio chitarristico così, mi è venuto in mente questo. Può darsi, comunque Susan Vega tanto di cappello, no? Certo, certo, è una grandissima artista Susan Vega. Sì, sì, assolutamente. Nel disco c'è un inusuale uso violoncello, clarino, piano, bello, interessante. Come mai, Ilaria? No, vabbè, lì la mente aggiuntiva è stata sicuramente quella di Gipo Gurrado, che ha lavorato insieme a noi appunto alla produzione artistica di un disco che nasce su una base prettamente live. Noi suoniamo in trio questo repertorio da un sacco di tempo, quindi era stato arrangiato veramente in modo molto dettagliato, con chitarra acustica, batteria e basso, perché io avevo fatto questa scelta insieme a Lucio Fasino al basso appunto e Antonio Fusco alla batteria di fare questo tentativo di portare una forma trio che solitamente non si usa nella musica leggera, di portarla invece sul repertorio di questo tipo, ed è stato molto interessante sia a livello musicale che personale, proprio come approccio sullo strumento. Per il disco invece di fare il disco completamente in trio, che ecco sarebbe stata una scelta un po' limitante a livello di suoni volendo, abbiamo tentato di andare verso una strada un po' appunto particolare, che rimanesse sempre nell'ambito della musica suonata dal vivo. Quindi l'apporto dell'elettronica è minimo e sembra invece appunto sembrano strumenti suonati, come per esempio l'utilizzo del libo, che è questo strumento che scalda le corde, che col calore delle corde, le corde vibrano ed emanano questo suono meraviglioso che a me piace un sacco, che è poi un'atmosfera, sembrano quasi degli archi, invece non lo sono. E poi appunto il clarino in Occhi Lucidi, che è un brano invece completamente acustico, perché non c'è neanche la batteria, lì c'è il caon, quindi queste associazioni un po' strambe in certi momenti, che rendono tutto però molto largo, molto fluttuante, che è quella l'atmosfera che mi piace, che siamo andati a cercare, che ha i suoi pro e i suoi contro, no? Certo, è un live mascherato, se si può dire così. Sì, sì, in parte, poi in realtà è tutto molto fedele a quello che siamo, con l'aggiunta di atmosfere che servivano, insomma, per rendere più vario e completo il disco, per renderlo un disco che chiude il suo cerchio, perché sicuramente avrai notato che non c'è una hit. No, esatto, cioè, sì, non è un disco dove vai a cercare questa cosa, è come appunto una stanza in disordine dove tu pian piano vai a cercare quello che ti serve, ecco. Certo, e tu all'inizio avevi detto in un'intervista che amavi il rock cattivo, tra virgolette, quindi Led Zeppelin, quindi Police non sì. Tanto, ma Led Zeppelin sì. No, Police sono proprio la mia band preferita. Ho capito. Sempre. E poi è il classico trio. Esatto, esatto, esatto. Il classico trio. Infatti, sì. No, infatti questa cosa qui incuriosisce molto, me la chiedono spesso, e la verità appunto è che io parto con le band che facevano le cover dei Metallica. Però. Sì, sì, la prima canzone che imparai a suonare e cantare fu Enter Sandman dei Metallica. Io, ma tuttora adoro il rock, cioè comunque è una radice forte che ho. Quello sicuramente. Sì, cioè, anche qua si sente il rock, però è stato, come tu hai detto giustamente, è stato non svisato, è stato ambientato, è stato ricondotto alla tematica di questo Nel mio disordine. Esatto, pratica. Esatto. Poi una cosa che mi ha fatto così venire la pelle d'oca, ma nel senso buono, è anche leggere all'inizio di quello che è il tuo sito, ovvero www.ilariapastore.com, dove dici, presentando Nel mio disordine appunto il disco, dice: benvenuti in questo luogo di personaggi inventati ed oscillanti, non abbiate timore di accomodarvi in questa casa caotica piena di storie vere, riflessioni, vestiti da riordinare, perplessità, parole di conforto, e calzini spaiati. Fantastico. Il calzino spaiato è la mia ossessione. Non c'è una volta che io riesca a trovare la lavatrice due calzini uguali, allora ma... li ho messi dentro, perché è la verità, lo giuro. Guarda, io non so come sono messo stasera, però sicuramente è una cosa terribile, non capisco. L'importante è che siano tutti e due dello stesso colore, Ilaria. Ma no, anche se uno è quadratini e uno le righette, non importa. Per lanciare la moda delle scarpe diverse. Sì, poi ho pensato anche Pippi calze lunghe, poi dai. Alla fine. Va bene, nel mio disordine, quindi, questo tuo ultimo lavoro, e torniamo sempre a vedere queste immagini meravigliose del tuo disco. Vale la pena acquistarlo. Anche solo per questo, è vero. Però poi non solo per questo. Ecco, no, perché... dai, cioè, no, non minimizziamo. Assolutamente no, era solamente per prendere ancora una volta in visione un'ottima caratura anche di quella che è la parte, diciamo, visiva e prima, certo, che entra in contatto con l'ascoltatore, e quella bellissima farfalla ad invito proprio a... Esatto. Che sia posata proprio. Sì, certo, sia posata sul disco, anzi, sì, il disco è posato sulla... farfalla e poi insieme volano. Bella, fantastico. L'abbiamo detto? L'abbiamo detto. Ilaria, mi puoi ricordare i musicisti che hanno partecipato al disco? Sì, assolutamente. Ecco, addio, tutti adesso. No, tutti no, quelli ti ricordi. Quelli no, ti ricordi. Ok, i principali ovviamente, quelli che fanno parte proprio del progetto da sempre, sono Lucio Fasino al basso, Antonio Fusco alla batteria, Gipo Gurrado, che appunto ha fatto la produzione artistica, ha suonato le chitarre, Libo, un sacco di cose, la programmazione. Poi c'è stato Mattia Boschi al violoncello, che è... Mattia suona anche con i Marta Sui Tubi, quindi sicuramente lo conoscerete. Certo, un gruppo straordinario, Marta Sui Tubi. Esatto, infatti ho avuto l'onore di avere Mattia nel disco insieme a tutti gli altri musicisti che ho appena nominato, che sono tutti grandiosi e hanno sposato questo progetto con un amore pazzesco, infatti mi sento fortunata, perché tanto di questo disco è dovuto a loro, non sarebbe venuto così senza di loro. Poi Valentino Finoli appunto al clarino, al pianoforte Mel Morcone, sicuramente ho lasciato indietro qualcuno, però insomma chiedo venia, sono emozionata. Non ho tra le mani il disco, sennò... No, ce l'abbiamo noi, ma vediamo che ci sono effettivamente tantissimi nomi. Quindi sì, penso anch'io. Andavo... Ah no, Floriano Bocchino, il Fender Rhodes, mi stavo dimenticando, invece ecco, lui vedi. Ci ha seguiti anche nella presentazione del disco che abbiamo fatto a Milano, alla Casa 139. E che ha suonato a volte, che è uno dei tuoi pezzi. Esatto, esatto, esatto. Sto attento a quello che dici. Bravo, grazie. Abbiamo studiato prima, Ilario, abbiamo studiato. Preparatissimi, sono in difficoltà io sul mio disco. Ma perché noi ce l'abbiamo davanti. Ecco. In questo caso sì. Vabbè, adesso scegliamo la traccia numero 3, Ilaria, che a me piace particolarmente. Anche a me. È un po' diversa dalla traccia 1. Chiaramente ogni traccia ha il suo andamento, la sua propensione, lo suo sviluppo. Io ho scelto questa traccia là, questo terzo brano dei 10 che praticamente formano questo tuo... Nel mio disordine. È una bella traccia, una traccia da sentire, da ascoltare attentamente, a mio parere. Ecco, allora ce l'ascoltiamo qui in diretta da Blu Radio Veneto, mentre stiamo piacevolmente parlando con Ilaria Pastore, la presentazione del suo nuovo lavoro che si intitola Nel mio disordine. Ascoltiamo per l'appunto la traccia numero 3 che si intitola A volte. Blu Radio Veneto. Basta poco per rivalutare ogni cosa, per scrivere una lettera d'addio a chi hai promesso eterno amore. A volte basta un attimo per dimenticare il proprio credo, per cancellare il tatuaggio che la coerenza lascia su di noi. Capire come stai, e quante volte capita di guardarsi e riconoscersi appena, nonostante quella allora. la faccia di sempre. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua ancora in diretta su Blu Radio Veneto, ancora con Flavio Bilato, Maurizio Calzavare. A telefono abbiamo Ilaria Pastore. Stiamo ascoltando con vero gusto questo ultimo lavoro di Ilaria Pastore, che si intitola Nel mio disordine, e stiamo cercando appunto di fare un po' di ordine con lei all'interno di questa battaglia persa. Dirvelo. Certo. Allora, abbiamo ascoltato A volte, ma Ilaria, una domanda. Sì. Ti senti più milanese o più pugliese? Da dove esce questa musica? Allora, io sono nata a Milano, è una vita che vivo qui, e da una parte è una vita che me ne voglio andare. Perché nonostante Milano sia una città comunque meravigliosa per tanti punti di vista, per chissà quale motivo io non ho mai sentito di appartenerlo. Mi manca il sud, mi manca il sapore che si respira altrove, cioè innegabile, insomma. Sicuramente queste canzoni sono nate sì a Milano ma anche in giro. Per fortuna, suonando, ti senti un po' di appartenere a tanti posti. E questa traccia 3 che abbiamo scelto assieme a te è ha tante chiavi di lettura, secondo me. Non so se sei d'accordo. Sì, questa canzone qui nasce da un episodio milanese in cui un caro amico, vedendomi un po' in difficoltà, perché era un periodo di errori che non riuscivo a digerire, perché a volte, no, dice, vorresti tanto che l'errore non ci fosse stato, mi disse questa cosa della dinamo, no? Tu fai come la dinamo, trasforma la fatica in luce. Ed è una bellissima immagine. Certo. Infatti da lì è nata poi questa canzone, che è un elenco di situazioni in cui purtroppo spesso ci troviamo, no? Siamo incoerenti, sbagliamo, non possiamo tornare indietro, però possiamo rimediare guardando avanti. Cioè, il succo poi è questo, che può essere letto in vari modi, ma questo è il fulcro. E poi questo intreccio finale di voci che si prendono, si allontanano, si avvicinano, è una cosa che dà proprio l'aspetto del testo, secondo me. Non so se sei d'accordo. Tra altre cose, anche vedendo le tracce, non sono tracce cortissime, perché tutte hanno un buoni 5 minuti anche di ascolto. Un bel coraggio. Come nel metal, che si usano queste cose. E quindi si ritorna nel metal. Ma non c'è niente di metal che qua. Sempre lì. No, effettivamente devo dire che non siamo stati lì a vedere cosa era meglio fare. Abbiamo fatto quello che ci faceva stare bene. Ci sono i pro e ci sono i contro, non lo nego, non è innegabile questa cosa. Però siamo sereni, siamo felici così. Cioè, insomma, poi una volta che nella vita, che magari hai la possibilità di produrre un disco con un'etichetta indipendente che ti dice fai quello che ti senti, perché noi crediamo così nella tua musica, così com'è, lo fai. Ricordiamolo l'etichetta allora, Ilaria. Beh. Ah sì, è fortissima, è la Total Unnecessary Records, quella con il loghino dell'omino che butta CD nel cestino. Sì. Che ha appunto adottato, oltre me, anche Veronica Sbergia and the Red Wine Serenaders. Lei fa blues degli anni 20, tutto riarrangiato con l'ukulele insieme a Max De Bernardi, pazzesco. E poi c'è Nolan, che è il progetto appunto di Gipo Gurrado, e questa etichetta ci ha abbracciati perché siamo tre progetti d'ascolto, quindi che la gente è costretta ad ascoltare, siccome oggi difficilmente si investe su progetti di questo tipo, perché la musica tende sempre di più ad essere un po' un sottofondo, no? Esatto. Sì. E niente, abbiamo rischiato tutti insieme, abbiamo unito le forze, in realtà le cose stanno andando bene, siamo un team unito, ci vuole tanta passione per far andare avanti un progetto così. E anche coraggio di prendere un pezzo e cantarlo con voce e chitarra, Ilaria. Sì. Non è semplice coi tempi che corrono. No, infatti questo è un disco suonato dal vivo e quindi imperfetto, ma è giusto così, ecco. Questo è stato un grande insegnamento che mi è stato dato dai miei musicisti, di vivere l'imperfezione con serenità, perché ci rappresenta. A proposito di musica dal vivo, ci sono dei tour in corso che farai tu col tuo gruppo prossimamente? Sì, noi in realtà siamo sempre in giro, perché questo disco nasce dopo forse 3 anni ininterrotti di date. Dopo abbiamo deciso di fare il disco, no? Sai, solitamente si fa il disco e poi si parte, noi invece abbiamo fatto il contrario. Adesso i prossimi appuntamenti sono l'8 maggio, c'è un live, vabbè, si può dire, siamo ospiti alla TV praticamente collegata ad un'altra radio. Puoi dirlo tranquillamente. Ok, appunto radio. E poi sarò in Liguria dal 21 al 23 di maggio, esattamente, adesso non ricordo, comunque La Spezia, Zoagli, Genova. E poi ancora in Liguria a giugno, perché in Liguria ci sono un sacco di posti che danno spazio alla musica dal vivo cantautorale prettamente. Poi a luglio saremo nelle Marche, come al nostro solito, perché dovete sapere che noi abbiamo un pubblico affezionatissimo marchigiano. Sì. E poi andremo in Campania anche a fine luglio, e poi insomma si vedrà piano piano cosa. Poi va in Puglia. Sì, infatti l'obiettivo è andare sempre più giù, giusto? Sì. Prima voglio arrivare a suonare anche in Puglia. Bene. E fare una versione pugliese. e almeno uno dei miei brani. Benissimo, se sarai delle nostre parti, lieti di invitarti qui all'interno dei nostri studi con chitarra sotto braccio e via. E, assolutamente. Ecco, e regalarci qualche emozione che magari il disco le trasmette, però quando c'è la presenza umana è le... diverso. Assolutamente, rende il tutto di una magia al 200%. È vero, ecco, è vero. Allora, Ilaria, sì. grazie a voi. Essere stata con noi, però prima di chiudere ci devi dare un piccolo cappello al brano che andremo ad ascoltare per parlare ancora della tua musica. Sì, andremo ad ascoltare Ora, che sì, è stata registrata così come è nata, qualche giorno dopo che è stata scritta, quindi così, un po' sospesa. E parla del tempo, appunto, come si può dedurre dal titolo, e del fatto che il tempo è una cura. Noi lo viviamo un po' come una malattia spesso, invece ci vuole tempo per fare ogni cosa, e ogni cosa ha bisogno di tempo. Bene, allora l'ascoltiamo questo pezzo per intero. Salutiamo Ilaria Pastore. Grazie, Ilaria. Grazie. Saluto a voi e a Roberta che arriverà tra poco. Ecco. Bene, bene. Magari vediamo, ci mettiamo d'accordo, magari gli facciamo poi la sorpresona. Esatto. Se i potenti mezzi della radio mi danno una mano, vedremo anche di fare un salutone in diretta anche con Roberta Carrieri, che giustamente Ilaria Pastore ricorda ci sarà nella seconda parte della nostra programmazione di interviste e di ascolto, appunto, della musica proposta da questi giovani artisti che cresceranno, anzi sono già cresciuti e lo dimostrano all'interno di questi lavori che noi stiamo ascoltando con grande piacere. Ancora Ilaria, grazie di essere stata con noi. Grazie a voi, grazie. Ciao, Ilaria. Davvero. Ciao. Ciao. Allora concludiamo, appunto, ascoltando questo pezzo di Ilaria Pastore tratto dal suo ultimo lavoro che si intitola Nel mio disordine, e per l'appunto questa è la canzone che si intitola Ora. Da che ora? Sera. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Mai serata fu più fortunata, ha detto Maurizio prima fuori dalla diretta. Abbiamo un sacco di donne da intervistare, ci sembra di stare su un harem. Esatto, cosa positivissima al 100%. Abbiamo appena finito di parlare in maniera davvero piacevole con Ilaria Pastore, la presentazione di questo suo ultimo lavoro, davvero davvero bello ascoltarlo dall'inizio alla fine, diciamo senza far caso all'ordine, come dice lei, ecco, nel mio disordine, e ci porta davvero ad atmosfere assolutamente. Sì, cantautorali, ma cantautorali fatto molto bene, orchestrata bene, di un certo rilievo sicuramente. E di un certo livello anche. Certo, ecco, certo. Perché bisogna ricordare che alla base di tutto c'è anche un lavoro, un tanto lavoro e molta professionalità. Allora, più tardi, quindi tra circa 5 minuti, il tempo di un'altra canzone, avremo il modo di metterci in contatto anche con Roberta Carrieri per presentare anche il suo ultimo lavoro che si intitola Dico a tutti così. Però visto che abbiamo dato inizio alla puntata completamente al femminile, come diciamo sin dall'inizio trasmissione, possiamo anche inserire un'altra canzone di un'artista italiana che è stata anche maestro, direttore, esatto, d'orchestra al Festival di Sanremo. A cantare c'era Enrico Ruggeri, ma lei è Andrea Mirò con Il Vento. L'amore mio respira in una mano, cinque dita ferme ed una chiave, rinchiuso nel calore rosso di un fuoco acceso. L'amore mio sta dentro un fiore bianco, piccolo regalo dell'estate, profumo nella notte calma di fine agosto. L'amore che non si confonde mai, è forte come il primo giorno, ancora mi sorride, aspetta. Sotto il fiume, la goccia che ha scavato a fondo dentro al mio cuore. L'amore che non ti delude mai, dà sempre una risposta e la tempesta non. Nasconde mai al gusto antico del silenzio il suono più perfetto e chiaro. E questa è Andrea Mirò con un bel pezzo, si intitola Il Vento. Sono le 21:47 minuti primi, siete sempre con Blu Radio Veneto all'interno della programmazione serale Blu Radio Sera, sempre con Flavio Bilato e Maurizio Casavara. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua, seconda tornata, un'intervista tutta al femminile in questa serata. Prima abbiamo avuto l'onore e il piacere di parlare con Ilaria Pastore e adesso un'altra artista si affaccia alla nostra cornetta. Parliamo con Roberta Carrieri, di lei e del suo ultimo CD. Buonasera Roberta e benvenuta in frequenza. Ciao a tutti. Buonasera Roberta. C'è un collegamento con Ilaria. Ilaria è di origine pugliese, tu sei di Bari, quindi c'è un collegamento. Non sapevo che Ilaria fosse di origine pugliese, pensa. Eppure l'ha detto. Scoprire così. Eppure l'ha detto. Ha detto che è un po' di sangue pugliese. Magari una manduriana. Ecco. Beh, comunque qui dalle parti di Milano siamo un po' tutti terroni, diciamo. Ecco. Conosco pochissimi milanesi a Milano, siciliani, pugliesi, quindi. Effettivamente è vero, diciamo che la città si è spopolata da una parte e ripopolata dall'altra. Comunque è stata una cosa anche, voglio dire, che adesso dà comunque frutti positivi, voglio dire, anche questa, voglio dire, amalgama di gente, di portare un po' di solarità al nord, no? Sì, anche questo. Ma il sole vero rimane sempre lì. Certo. Vabbè, dai, non è vero. Questo è un luogo comune. A Milano a volte il cielo è molto più terso che non a Bari. Certo. Ecco qua. E allora, benvenuta all'interno di una radio di Polentoni. Perché esatto. Si chiamano così gli abitanti del nord e noi siamo della redazione di Padova. Per quindi cui siamo abbastanza al nord. Roberta, cantate dei Fiamma Fiumana. Ma questo disco si allontana, secondo me, dai Fiamma Fiumana notevolmente. Tantissimo. Vero? Moltissimo. Molto più intimista, mentre Fiamma Fumana è un genere, cioè è una band che faceva del folk, del rock sperimentale a tratti a momenti. Tu ti hai allontanato volutamente da questo genere, sì, per provare una carriera solista. Sì, ti dirò, Fiamma Fumana in realtà io sono subentrata a cantare con loro di seguito alla defezione della loro cantante storica, quindi sì. Comunque era un repertorio che non mi apparteneva, nel senso che io interpretavo e comunque molto spesso con i Fiamma Fumana si trattava proprio di canzoni tradizionali del sì. Nord Italia, dell'Emilia soprattutto, esatto. Di canti delle mondine eccetera, quindi comunque naturalmente è molto distante invece dal mio mondo, che invece è cantautorale, cioè nel senso sono canzoni che scrivo io, sono molto, a volte anche molto personali, quindi comunque portano dietro la mia storia che è mia peculiare. E poi tra l'altro comunque con i Fiamma Fumana usavamo molte sequenze elettroniche, sì. E dialetto per esempio, invece nelle mie canzoni l'elettronica quasi non c'è e le canzoni sono in italiano. Sono l'elettronica proprio è scomparsa, non c'è proprio, è molto intimista a momenti il tuo disco, non totalmente però, no, in alcuni momenti sì secondo me. Sì, ci sono un paio di canzoni meno intimistiche che sono un po' precursrici. Sì, ecco, ma portano avanti un discorso. Quella parola là, esatto. Quello che in realtà sono la mia nuova scrittura, le canzoni nuove che sto scrivendo, che poi ci saranno nel prossimo disco ancora, noto che sono meno intimistiche, più chiare come testi e più allegre, non so perché, forse certo. Perché sono più allegra io. Questo disco Dico Tutti Così è un po' malinconico, ci sono queste ballate un po' malinconiche. Vabbè, comunque voglio dire, tu a proposito di divertimento, tu sei anche una clown trampoliera, perlomeno sì. Così dicono. Non ti abbiamo mai visto, però guarda, possiamo immaginarci da dove ci stai telefonando adesso. Sì, come sei posizionata? Sono in equilibrio. Hai capito? Sopra qualche trespolo magari. No, in realtà guarda, l'ho fatto per tanti anni, perché io ho iniziato da giovanissima anche a lavorare in teatro come attrice, ma anche come animatrice, come clown trampoliera, eccetera. Mm-hmm. Adesso non lo faccio più da tanto tempo. L'ho fatto per anni, ma adesso diciamo sono più concentrata sulla musica. E facevo sì la clown anche. Che deve essere un'esperienza assolutamente positiva, perché non è vero che il clown fa piangere o fa ridere. Il clown è un'espressione di vita dove ci si, come dire, ci si fonde totalmente, perché il clown è una parte di noi, sei d'accordo? Sì. Soprattutto quando una volta sono scivolata su una nocciolina e sono caduta brutalmente dai trampoli, però va bene. Sì. Allora, in quel caso là hai maledetto la scimmia di turno che era lì, ecco, che si era fatta cadere le noccioline. Vabbè, riprendiamo a parlare della musica di Roberta Carrieri. Sì, abbiamo scelto per iniziare, per aprire la finestra di questo tuo disco da solista, Vorrei, mi pare che sia il primo pezzo, che non è un pezzo totalmente intimista, è un pezzo un pieno di cose, musicalmente parlando, io l'ho sentito così. Non so se sei d'accordo. Sì, guarda, è una canzone d'amore proprio, infatti si intitola Vorrei. È una canzone esplicitamente d'amore. E allora, visto che è esplicitamente d'amore, apriamo l'amore e alziamo il cursore del disco per far ascoltare questo pezzo tratto dall'ultimo lavoro di Roberta Carrieri che si intitola Dico a tutti così. Radio Veneto. Ero nell'aria. Sguardi dolci per me, percorro i tuoi sentieri, ho sguardi dolci per te. Vorrei, vorrei, vorrei portarti al mare, fare l'amore, dimenticare le cose amare. Ogni cosa è al suo posto, ti sei vestito bene, hai fatto il caffè. Fuori non piove ed hai un sorriso grande, grande, grande, più grande di te. E ancora come ieri hai sguardi dolci per me, percorro i tuoi sentieri, ho sguardi dolci per te. Vorrei, vorrei, vorrei portarti al mare, fare l'amore, dimenticare le cose amare. Vorrei, vorrei, vorrei, vorrei, vorrei ancora sognare, non mi svegliare, non farmi vedere le cose nere. Leggero nell'aria. E ancora come ieri hai sguardi dolci per me, percorro i tuoi sentieri, ho sguardi dolci per te. Vorrei, vorrei, vorrei portarti al mare, fare l'amore, dimenticare le cose amare. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua ancora rigorosamente in diretta a Blu Radio Sera assieme a Roberta Carrieri. Stiamo ascoltando le fasi principali di quello che è il suo disco Dico a tutti così. Abbiamo aperto conoscendola anche con la musica una canzone che si intitola Vorrei. Sì, tu hai detto, Roberta, che è una canzone d'amore, ma musicalmente è una canzone piena di pathos, di energia, anche arrangiata in una certa maniera. Sì, l'arrangiamento di questa canzone, tra l'altro, l'ha curato Lorenzo Corti, che è un chitarrista bravissimo di Milano, che poi suonava anche con Cristina Donà. Infatti, certo. Non so se a volte si riconosce questo tocco chitarristico che c'è anche nella Donà, che c'è in questo pezzo che ha arrangiato lui. E sì, è una canzone che è intensa perché l'amore è intenso. Chiaro, chiarissimo. Beh, è giusto che sia così, indubbiamente. Dal vivo come la fai? Come fai questo pezzo qua? Voce e chitarra. Voce e chitarra. Vabbè, io, come ci siamo detti dietro le quinte, spesso sì? Giro dal vivo da sola, voce e chitarra, ho anche una band. Però, diciamo, ultimamente molti concerti li sto facendo da sola, voce e chitarra, quindi semplicemente mi accompagno. Tra l'altro, se i vostri radioascoltatori hanno voglia di guardare qualche video dal vivo della Roberta Carrieri, possono cercarmi su YouTube. C'è un sacco di materiale, tra cui anche dei video di questa tournée che ho fatto a settembre e ottobre negli Stati Uniti. Quindi se loro cercano Roberta Carrieri tipo a Shiprock, ci sono questi live negli Stati Uniti che sono divertenti, anche perché io parlo in inglese malissimo e la gente ride. Tra le altre cose, c'è anche nella tua pagina di myspace.com/Roberta Carrieri, ci sono proprio elencati tutti i video che, che vuoi proporre. Sì, mi ero dimenticata che basta andare sul MySpace e ci sono i link su questi video. Tra l'altro, ne approfitterei per ricordare che nel caso, sulla pagina di MySpace, ma anche sul sito, se c'è anche la possibilità di acquistare il disco. Beh, certo, ho diciamolo. Ho fatto anche un po' di pubblicità. Ma è giusto, diciamolo a pure. A questo punto direi anche qual è l'indirizzo del sito, che è www.robertacarrieri.com. Ricordiamo anche l'etichetta, Roberta, visto che ci siamo. Sì, è Xbit Goodfellas, la distribuzione. Certo, certo. Okay. Mm-hmm. Benissimo. Bene, allora, se sei d'accordo, volevo fare un... Vediamo se ti riconosci, Roberta, qui dentro, eh? Vediamo un attimino. Vediamo. Vediamo se arriva l'audio, se siamo fortunati di poterlo... Come se mi riconosco? Grazie. No. Ecco qua, è proprio qua. Sai cosa dicevo, sì, qui? Sì. Dicevo che avevo imparato una nuova parola che era ahehe, perché io stavo cantando lì nella riserva indiana Navajo, in New Mexico. E ahehe vuol dire grazie in Navajo, nella lingua nativa. Mm-hmm. Solo che quella sera, non so per quale motivo, il teatro della riserva indiana era solo, c'erano solo americani, quindi nessuno capiva. Nessuno mi ha capito in quel momento. Ho capito. Peccato. Solo dopo hai capito che non ti solo avevano capito. Ho capito che non mi capivano. Okay. Tra l'altro c'è anche un video dove canto lo yodel. Quello è buffissimo. Però... Addirittura, vediamo qual è. Vediamo di farlo in diretta. Qual è, Roberto? C'è scritto proprio yodel, credo. Vediamo un attimino se ce l'abbiamo. Anzi, sicuramente c'è. Ma magari nella angolino, mia madre, dico tutti così. Non so se c'è sul MySpace, forse c'è su YouTube. Vabbè, va bene. Se poi verrete a vedermi un concerto, io lo faccio sempre, lo yodel. Ah, benissimo. Ottimo. Invitiamo anche i nostri amici altoatesini. In questo caso. Tra l'altro, lo yodel io l'ho imparato da un boliviano, figurati. Però. Quindi. È vero. Che l'aveva imparato da uno di Bressanone. E io sono di Bari, quindi... Beh, il cerchio si chiude. La contaminazione è importante. Esatto, la contaminazione. La world music. World music. Quindi non solo Peter Gabriel, ma anche altre persone. No. Assolutamente sì. Sì, sono un po' come Peter Gabriel. Esatto. Siamo usciti un po' dai binari, sì, vabbè, comunque il bello della diretta. Io ti sto guardando ancora anche sul video di YouTube, però naturalmente tengo basso il volume. Vedo che sei appassionata alla chitarra e quindi deve essere un bel concerto. Roberta, sei stata solo nella riserva Navajo oppure sei stato qualche altro posto negli Stati Uniti? Guarda, negli Stati Uniti io con i Fiamma Fumana ci sono stata tipo 6 o 7 volte in tournée. Tournée anche di 3-4 settimane di fila ogni giorno in uno stato diverso, quindi l'ho girata abbastanza. Poi invece da sola ci sono stata tutto settembre e sono stata in New Mexico, California... Arizona e Utah. Bello, è girato abbastanza. Sì, bello, bellissimo. E infatti spero di tornarci. Bene, benissimo. Ecco, e allora visto che parliamo di giri, no? Un po' più vicino, visto che... Guarda, un po' più vicino, dopodomani sono a Mariano Comense, che è in provincia di Como, sì. Alla stazione Cantautori, che è questa serata organizzata da Andrea Parodi e credo Massimiliano La Rocca, da quello che... E quindi suonerò lì a Mariano Comense. Andrea Parodi è dei Barnetti Brass? No, Massimiliano La Rocca. Ah, è vero, eccolo qua, sì, uno dei due sapevo. Vabbè, ma per venire però verso... Io non lo sapevo, dillo anche a me. Massimiliano La Rocca fa parte di Barnetti Brothers, assieme a Massimo Bubola, che hanno inventato questo modo di suonare, di interpretare le musiche non prettamente popolari, ma abbastanza ben fatto, con tanto rock americano tra virgolette. Mm-hmm. Molto bravo, molto bravo. Beh, Massimiliano Rocca è molto bravo. Ma ecco. Sì, io l'ho conosciuto a Firenze perché mi aveva invitato, perché facevano anche lì una stazione cantautori. Certo, è vero. Credo che lo facciano ancora. Sì, è verissimo. Benissimo. E allora invece da Mariano Comense venire qua nel Veneto? Non è possibile. Guarda, per ora non ho date. Invitatemi, io vengo. Perfetto. Le prossime date sono in realtà nella zona di Milano, ma anche poi vado in Puglia e dalle parti di Orvieto anche. Comunque le date di solito ci sono sul sito. Benissimo, c'è una pagina che si chiama News e Concerti, e poi se ci si iscrive alla newsletter arrivano proprio i comunicati con tutte le date e tutte le novità. E Roberta, chitarra acustica o chitarra elettrica? Acustica. Amplificata oppure no? Amplificata. Sai perché? Io cerco di viaggiare in una maniera più essenziale possibile, quindi cerco di basare il mio spettacolo pochissimo tecnicamente, in modo tale che io possa farlo dappertutto senza bisogno di esigenze tecniche particolari, quindi anche in completo acustico. Mi è capitato anche proprio senza microfono. In Francia ho fatto un paio di concerti in un posto strapieno di gente, anche grosso, senza impianto, perché è molto bello anche la relazione che tu instauri col pubblico quando non hai la barriera dell'impianto e del microfono. Certo, anche mi piace molto questa cosa qua, e quando posso lo faccio. Tutto intorno, richiamare l'attenzione è difficile però, no? Nella fase iniziale. Ti dirò che magari in Italia è un po' più difficile, ma all'estero c'è un'attenzione veramente alta, e quindi non vola una mosca, e quindi si possono fare queste cose. Perfetto, ci hai insegnato una cosa nuova, e effettivamente è vero, siamo un po' cacciaroni noi, effettivamente. Sì, è vero. Molte volte, sì. Esattamente. Allora, continuiamo con l'ascolto di un altro pezzo del tuo nuovo lavoro, Roberta, che appunto ricordiamo si intitola Dico a tutti così, è un copertino riconoscibilissima, visto che ci sei tu in copertina e con i tuoi capelli rossi, e poi un po' di mani che ti, come dire, mi deformano la faccia. Ti deformano, mi sembra. Sì, guarda, ognuno poi la può interpretare come vuole quella foto, o che mi deformino, o che mi tocchino, o che mi accarezzino, a seconda. Benissimo. È una foto enigmatica dalle molteplici interpretazioni. Bene, e comunque mette anche curiosità per capire cosa c'è dentro questo disco, e fino adesso abbiamo scoperto che ci sono assolutamente dei bei brani d'autore. E allora continuiamo con la programmazione musicale, ascoltando anche un altro pezzo che si intitola Non ci sei mai, e poi torniamo a commentarlo assieme a Roberta Carrieri. Mi riparo che sono spaccata. mi riparo i tagli, mi riparo indietro, mi riparo intorno. E timida, timida consolazione, non ci sei mai. E timida, timida consolazione, non ci sei mai. Non ci sei mai. Radio Sera. Blu Radio Sera. Roberta Carrieri, il suo ultimo lavoro si intitola Dico a tutti così. Ci siamo ascoltati la traccia numero 7 di questo bel CD. Si intitola Non ci sei mai. Abbiamo anche Roberta in collegamento telefonico con noi per parlarci di questo suo lavoro. Ancora buona serata Roberta e complimenti per il lavoro. Grazie, grazie. Roberta, ecco, abbiamo scelto volutamente questo pezzo qua perché è un pezzo strano, particolare, ben fatto. E poi, non so se ho sentito male io, ma c'è anche Rodrigo D'Erasmo dentro. Rodrigo D'Erasmo? No, in questo pezzo... Ma ne suona di Rodrigo D'Erasmo in ogni caso? Rodrigo D'Erasmo ha suonato in Se Potessi. Esatto, suona in qualche momento. Rodrigo D'Erasmo è un violinista straordinario. A me piace tantissimo, infatti l'ho scoperto io, Rodrigo D'Erasmo. Okay. Poi l'hanno chiamato gli After Hours. Sì, bravissimo, bravissimo, bravissimo. Ma l'ho scoperto io. Hai capito. Bene, complimenti, se tu l'hai scoperto è bravissimo in ogni caso. Sì, sì, sì. Mi piace molto, lui si rifà un po' allo stile di Warren Ellis, che è questo violinista che accompagna spesso Nick Cave, che a me piace molto. È un altro musicista. Questi violini a volte molto taglienti, anche a volte un po' distorti, che mi piacciono tanto. Vi dirò che dal vivo adesso mi accompagna un musicista che si chiama Roberto Isinaz Zanisi, che lui in realtà suona questi strumenti etnici tipo il buzuki o il djumbush, che è uno strumento turco, piuttosto che lo tifteli, che è uno strumento albanese. Anche là sono degli strumenti acustici che però lui usa con dei pedali, quindi degli effetti tipo delay, distorsore. Mi piace molto appunto usare, contaminare questi strumenti acustici con dei suoni diversi, un po' più marci, diciamo. Questo è un pezzo con una melodia strozzata, se mi è consentito il termine, non cupo, ma con molto pathos, con molta ricerca. È la mia solitudine. È la tua solitudine. Ce l'hai sempre la chitarra però, Roberta, in ogni caso, che ti fa compagnia. Sì, c'è sempre la chitarra. Sì. Quindi si versa anche qualche lacrima all'interno di questo lavoro. Eh sì, cari miei, nelle canzoni si versa sempre qualche lacrima. E non soltanto nelle canzoni. Ok. Allora, noi abbiamo ancora un po' di minuti per stare insieme, quindi c'è anche il tempo per ascoltare un terzo brano per la chiusura della trasmissione. Però prima volevo sapere da Roberta Carrieri quali sono le sue contaminazioni musicali, ovvero quali sono gli artisti che sin da piccola hanno così plasmato l'anima musicale di Roberta Carrieri. Guarda, io sono cresciuta con i Beatles perché mio padre suonava in un gruppo beat quando era giovane, quindi poi suonava la chitarra e cantava in cucina, io facevo i cori sulle canzoni dei Beatles e di Francesco De Gregori. Adesso ti direi che invece spazio veramente da cose assurde e diversissime tra loro, cioè passo da Nick Cave e Granderman a Beyoncé, per esempio. Passando per la musica greca rebettica, che è una mia vecchia passione. La quindi musica... veramente Rebettica, che sarebbe la musica dei primi del Novecento greca, con influenze turche, e sono tutte canzoni in realtà che parlano di hashish, a dire il vero, e che sono state vietate per tanti anni. Infatti io ho delle registrazioni che vendevano fuori dall'università in Grecia, si chiamavano Apagoresmene Ektelesis in greco, che vuol dire registrazioni proibite. E c'è gente che tossisce, che si lamenta, gente che è in galera. Erano, diciamo, una parte di Grecia filoturca, credo, qualcosa del genere, che erano perseguitati, si chiamavano rebettes, e suonavano il bouzouki e lo nascondevano sotto la giacca. Infatti avevano costruito un bouzouki più piccolo che si chiamava baglamadaki, che loro tenevano nascosto sotto la giacca. C'entra qualcosa il sirtaki, scusa, te lo chiedo? No, solo lo strumento è simile, perché c'è il bouzouki, che però è la versione grande del baglamadaki. Certo. No, è bello sapere in realtà anche... si balla anche... completamente diverso, perché il sirtaki è un ballo di gruppo a cerchio, e invece il rebettico è un ballo individuale, di un maschio solitamente, che fa questa specie di danza disperata e a volte acrobatica, giocata su dei bicchieri con dell'alcol che lui riesce a bere in posizioni acrobatiche, e tutti gli altri intorno che gli battono le mani con le inginocchiati. Fantastico. Quindi, e tu, visto che abbiamo ricordato all'inizio di trasmissione che sei stata anche clown, trampoliere, giocoliere, hai fatto anche questo? No, diciamo che sono una grecista appassionata di cultura greca, infatti so anche parlare il greco e ho vissuto un po' in Grecia, quindi Il massimo Paracalò, ma non Paracalò, così via. Però non lo so ballare rebettico, però so cantare qualche canzone. Però nel disco che abbiamo qui davanti c'è nessun collegamento con la musica greca, secondo me. No, infatti alla fine il mio disco è proprio una sintesi di tutte queste influenze così lontane tra di loro, che alla fine hanno dato quel risultato là, che non si capisce. Si capisce. Sì, si capisce, però diciamo non sono chiari, non senti la musica rebettica o non senti Beyoncé e non senti Nick Cave. Certo. Senti, ma Nick Cave può darsi che qualche spiraglio, qualcosa, per esempio in questo pezzo qualche spiraglio c'era, a mio parere, tra virgolette. Bene, allora Roberta, due canzoni le abbiamo scelte noi, adesso ti lasciamo scegliere una canzone del tuo lavoro. A quale sei più legata? Sceglierei Mia madre, si intitola, credo che sia la seconda traccia del disco. Sì, la traccia numero 2 che stiamo già... Allora, prima di salutarci, parliamo anche un attimino di Mia madre, è dedicata a tua madre. Eh sì, a mia madre. In realtà, come dico spesso, io traggo spunto dalla mia vita personale, input, che poi trasformo e rielaboro un po' mischiandoli alla fantasia. Questa immagine di madre... parte da una certa sensazione che io ho avuto di mia madre in un periodo e poi ho voluto generalizzare dipingendo la mamma, diciamo, tipica di quelli della mia generazione, cioè una mamma che non ancora sa usare tipo il telefonino, i messaggi, infatti dice a un certo punto mia madre non sa mandare i messaggi col telefono. Quelle mamme che sono lì che stanno per imparare a usare il computer, però sono un po' della generazione precedente, quindi sono a cavallo e un po' in difficoltà. Sono e ancora dicono, disconnesse. Io... Sì, sono ancora disconnesse. Una cosa volevo chiederti, Roberta, se ti ricordi chiaramente i musicisti che hanno partecipato alla stesura dell'album? Sì, allora vabbè, a parte proprio la formazione base, che c'è Luca Recchi al basso, Matteo Curallo al piano, che ha curato gli arrangiamenti, e Lucio Sagone alla batteria, poi ci sono una serie di ospiti che vanno da Lorenzo Corti, che dicevo prima, alla chitarra elettrica. Certo. C'è un duetto vocale con Mauro Urbano Giovanardi, che sarebbe Joe De La Cruz. Come sei riuscito ad avere questo duetto con l'ex La Cruz? Vi dirò che sono miei amici, e siccome Milano e il mondo è piccolo, certo, alla fine, siccome ho registrato in questo studiolo di Cesare Basile, cioè, che è un altro mitico produttore, alla fine capitava anche per caso che qualcuno che suonasse il campanello dello studio, ah, capitava qualcuno che diceva dai, ma canta un po' questa canzone, dai, suona un po'. Sì, mi hanno regalato i loro contributi, di cui sono stata veramente felice, perché hanno arricchito le mie canzoni tantissimo. In particolare c'è questo banjo di Cesare Basile in una canzone che si chiama Angolino, che mi piace tantissimo perché è veramente romantico, piuttosto che c'è anche una chitarra elettrica di Davide Toffolo, piuttosto che, insomma, ci sono vari contributi. Davide Toffolo, che è, dei è il cantante dei Tre Allegri Ragazzi, Tre Allegri Ragazzi esattamente. Morti, sì. Stavo per dire, perché è anche tra le altre cose un fumettista. Un grande fumettista, cui, sì. Sì, sì, sì, difatti, sì, tra l'altro noi abbiamo, abbiamo collaborato in questa performance che si chiamava Tres, fino all'anno scorso, che era un esperimento di interazione tra musica e disegno dal vivo. Cioè io cantavo e suonavo e lui disegnava, e con un videoproiettore, una telecamera, poi proiettavamo quello che lui disegnava alle mie spalle, ed era molto bello e suggestivo, proprio perché c'era interazione tra quello che io cantavo e quello che lui disegnava. Che poi, tra le altre cose, i Tre Allegri Ragazzi Morti erano anche presenti alla festa del 1° maggio, hanno fatto anche un buon successo. Certo, dire. Sì. Sì, sì, li ho visti. Gruppo di Pordenone, che poi è anche un'etichetta, La Tempesta, con numerosi artisti di grosso calibro. E una cosa che abbiamo sentito a microfoni spenti fra... mentre andava il pezzo, che sei vicina di casa di Alessandro Grazian, che è un musicista nostro padovano che adesso abita a Milano, che è venuto un sacco di volte a suonare da noi. L'ho appena incontrato alla FNAC. Ecco, vedi, come gira il mondo. L'ho incontrato anche ieri, qua vicino. Ci incontriamo spessissimo. Allora portagli saluti da Padova. Esattamente. Magari, ecco, magari non sa come stiamo, che stiamo bene. Ok. Vabbè, allora, Roberta, ci ha fatto molto piacere parlare con te, soprattutto ascoltare la tua musica, che continueremo anche a fare. E andate a comprare questo disco, Roberta Carrieri, Dico a tutti così, è il titolo del... di questo nuovo lavoro, con dei pezzi davvero... Sì, ricordiamo che si può comprare attraverso il sito robertacarrieri.com o anche dal MySpace, perché anche nei negozi di dischi distribuito Goodfellas. Benissimo, quindi si trova abbastanza facilmente. Diciamo di sì. Bene. Diciamolo. Ok, Roberta, ancora buona serata e... godiamoci questa ultima canzone che si intitola Mia Madre. Ciao Roberta, a presto. Ciao Roberta, ciao, grazie. Non esce mai, non ride mai, mia madre. Lei che vorrebbe fare le scale due a due, sorride e mi dice vai. Mia madre non balla mai, come dirle che le voglio bene se non mi ha insegnato a dirlo, come dirle che le voglio bene se riesco solo a cantarlo. Chissà se quando è sola in casa piange o canta, se quando è sola in casa si annoia e conta. Mia madre sa se sono stanca, sa quello che manca e si accontenta. Mandare messaggi con il telefono, come si prende un treno, mia madre non lo sa, vorrebbe fare le scale due a due, saluta e mi dice vai. Mia madre non parte mai, come dirle che le voglio bene se non mi ha insegnato a dirlo, come dirle che le voglio bene se riesco solo a cantarlo. Chissà se quando è sola in casa piange o canta, se quando è sola in casa si annoia e conta. Mia madre sa se sono stanca, sa quello che manca e si accontenta. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua ancora, abbiamo terminato l'ascolto di un altro bel pezzo di Roberta Carrieri che si intitola Mia madre, un brano come ricordava l'artista che abbiamo avuto fino a poco fa in diretta, parlava di sua madre ma anche di altre figure femminili così, esatto, importanti come la mamma, però anche delle mamme che non diventano moderne come le figlie, anche se le figlie cercano di insegnare alle madri appunto a prendere il treno, a comporre i messaggi al telefono, che devo dire anche io sono un po' in bradatello questo fatto, poi con la scrittura facilitata me la complica da morire, è vero. Assolutamente. Vabbè, allora abbiamo ascoltato prima dei pezzi di Ilaria Pastore, raccomandiamo ancora una volta il suo lavoro che si intitola Nel mio disordine, e poi Roberta Carrieri con Dico a tutti così. Quindi due nuove voci al femminile del cantautorato italiano, è interessante, giusto questo sviluppo, questo allargamento, positivo al 100%. Certo, allora noi proseguiamo ancora con l'ascolto di musica sempre rigorosamente al femminile, omaggiando queste grandi figure che musicalmente parlando sono, diciamo, sono insostituibili. È vero, è vero. Le donne ci regalano sempre grandi emozioni, parliamo di un'altra grande artista del nostro panorama italiano. Stiamo già ascoltando in sottofondo Cristina Donà con un pezzo davvero travolgente, Nel mio giardino. Ho riempito d'oro il giardino perché tu vedessi chiaramente dov'è il cammino e quanti sono i passi. Thank you. mia luce.